Questo è lo spazio dedicato al teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 14 con interviste su spettacoli, festival e rassegne in corso. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Siamo con l'autrice, attrice Tamara Bartolini per parlare dell'ultimo appuntamento di questa nuova stagione del Red Reading, Un giorno bianco, al Teatro di Villa Torlonia, giovedì 14 giugno. Tamara, ben trovata. Ciao, un abbraccio a tutti. Raccontaci tutto di questo ultimo appuntamento di stagione. Allora, siamo arrivati all'ultimo, al quarto appuntamento di questa terza stagione, che era iniziata con furore, era passata attraverso le storie raccontate nei libri di Alberto Brunetti e poi Rosa Mordenti, e arriviamo a questo Red Reading 13, Un giorno bianco, dove il noi dimora in me, dal libro Ho costruito una casa da giardiniere di Gilles Clément. Un libro che, ma non solo il libro, insomma, tutto un pensiero del paesaggista, giardiniere, filosofo Gilles Clément che ci interessa e che ha nutrito tanto i nostri ultimi lavori. E il Red Reading 12, quello di maggio, finiva con la canzone di Rino Gaetano, Dammi la mano, stammi vicino, può nascere un fiore nel nostro giardino, e poi c'erano le immagini di Anna Magnani nel film di Nanni Loi che si faceva carico della sua famiglia per attraversare il traffico di Roma, e riprendiamo un po' da là, come se volessimo anche noi farci carico un po' della vita intera, no? Di tutto il male, di tutto il bene del mondo, come cantava una bellissima canzone, e raccontando di che cos'è questo farsi carico, forse, che probabilmente è più una vera e pura, è un domandarsi come si fa a stare tra le rovine in cui siamo tutti, dove stiamo andando, cosa stiamo lasciando e che cos'è la casa. Siccome Gilles Clément in questo libro ci racconta come ha costruito questa famosa casa, la Vallée, luogo poi, insomma, negli anni 70 ha iniziato a costruirla e ancora c'è, ed è stato un luogo importantissimo anche delle sue lezioni, attraversata da studenti, da amici, da collettivi, eccetera, e ci racconta la costruzione di questa casa. E questo pensiero e la storia di questa costruzione ci sembra una metafora straordinaria, di far ragionare su quali sono i residui che compongono la nostra possibilità di questo terzo paesaggio di cui parla tanto Clément, dove sono questi luoghi marginali di cui riappropriarsi perché diventino anche spazi di resistenza, no? Pratiche di cambiamento, e quindi dove la memoria diventa azione, la memoria delle cose, delle persone, e dove quel noi di cui abbiamo iniziato poi questa stagione proprio a partire da Furore, l'io diventa noi. C'è un pezzo bellissimo nel libro in cui dice: sono solo davanti al cantiere di questa vallata, ma il noi mi anima, il noi dimora in me. E allora appunto scopriamo che c'è bisogno di cura, di fare cose difficili, come scriveva Gianni Rodari, guardare, ascoltare, avere pazienza e pensare appunto che tutta la terra è un giardino, e imparare appunto allora a salutare ciò che abbiamo intorno, a seminare, a far tesoro di tutto, delle persone, degli animali, delle piante. Per quello è un giorno bianco, perché lui dice che questo giorno bianco parte da uno sfratto, quindi da un dover andare via dalla casa della propria infanzia in quel caso, no? Però un giorno bianco è anche una possibilità che si apre, è ricominciare dalla prima pietra, come dire la luna, e provare a diventare noi giardinieri di questo mondo giardino e seminare bellezza. Quindi questi sono un po' i temi che affronteremo, e lo faremo come al solito con il pubblico, con gli ospiti, con gli altri musicisti che hanno attraversato questa stagione, insomma. Quindi ecco questo. Questo. Beh, hai detto tutto, Tamara. Benissimo. Per cui anche della musica, anche degli ospiti. Magari ecco, ricordiamo quali saranno gli ospiti. I nostri musicisti, vabbè, chiaramente insieme a me, a Michele Baronio, Renato Ciunfrini e Sebastiano Forte, e poi ci saranno Valentina Correani, che è attrice, conduttrice, contadina urbana ed esploratrice, e si sta occupando di uno degli orti urbani a Centocelle,

ed è anche divertente, so, comporre un po' una cosa tutti insieme fondamentalmente, no? Sì, sì, quindi, sì. C'ha questo pregio, nel senso, c'ha il pregio pure di intervenire sia sulle nostre, dico una parolona, poetiche, va bene, per capirci, no, per dire, sia di farci venire appunto degli spunti, sia di essere per noi pure un terreno di sperimentazione, di gioco, capito? Sì, sì. Perché il gioco è molto importante nella vita. È fondamentale. È fondamentale. Gioia, tu sei una delle più assidue di presenze. Magre. Le più magre delle... Esatto, anche tra le più magre. Volevo chiederti anche che impressione hai su come, rispetto a come si sta sviluppando, puntata dopo puntata. Ma la cosa è cresciuta, il fatto è cresciuto, quindi insomma, l'impressione che io ho è che le persone si sono affezionate e noi abbiamo fatto un percorso dentro a questa cosa qui. Io personalmente, per esempio, Sgombro è il contenitore dentro il quale porto il lavoro con i musicisti che faccio. Sì. Quindi è diventata una cosa che è partita un po', come dire, all'arrembaggio, nel senso come quando si iniziano le cose tutti insieme. Sì. E poi dopo ha preso una sua forma ed ha... si evolve di volta in volta, e in più noi ci troviamo pure a chiedere cosa fare, come mettere a fuoco delle cose, insomma, voglio dire, c'ha una sua forma che muta nel corso degli anni e che si va specificando, delle cose invece cambiano, eccetera, eccetera, capito? Sì, sì. In questo senso qua. Senti, per tutti i riferimenti c'è la pagina Facebook sia pagina di Facebook di Sgombro, sì, che dell'evento. Rassegna, appunto, queste due puntate che si trovano dentro la rassegna Disperazione Comica, e quindi sì, ci si può informare, siamo comunque al Monk, e quindi per berci delle birrette e farci delle risate. Bene. Di capire. Disperazione Comica, Sgombro Estate numero 1, 14 giugno, Monk a Roma. Un saluto, un abbraccio a Gioia Salvatori. Gioia, a presto. A presto, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Siamo in collegamento con Laura Andreini Salerno, che guida la compagnia del reparto G8 di Re Bibbia Nuovo Complesso, per parlare dello spettacolo La Rivoluzione alla Sudamericana, che sarà al carcere di Re Bibbia Nuovo Complesso il 28 giugno. Laura, ben trovata. Buonasera a tutti, salve. È importante aggiungere subito che l'accreditamento è obbligatorio entro il 15 giugno. Esatto. E come sempre, per entrare nel teatro di Re Bibbia bisogna fare proprio un procedimento, e quindi bisogna proprio volerlo venire a vederci, e comunque è tutto indicato sul nostro sito. Perfetto. Allora, cominciamo dalle basi. Ci parli un po' dell'esperienza della compagnia? Sì, dunque, noi come Centro Studi Enrico Maria Salerno siamo presenti all'interno di Re Bibbia e curiamo dal 2002-2003, siamo attivi all'interno al teatro, perché dentro a Re Bibbia c'è un bel teatro di quasi 400 posti, e noi seguiamo le compagnie che sono quelle dell'alta sicurezza, che segue Fabio Cavalli, la compagnia diciamo storica, e quelli, per intenderci, del film dei Taviani, Cesare deve morire, ecco, sono esatto. Loro. E poi io invece che seguo la compagnia del G8, che sono un'altra sezione del carcere maschile, e quindi noi siamo lì da tanti anni. Praticamente siamo tutti i giorni in carcere, siamo semiliberi, ed è un'esperienza, insomma, che ci ha portato a infinite sorprese, soddisfazioni, anche tanto, come dire, toccare con mano una realtà difficile, che da fuori, prima di arrivare invece dentro un carcere, di rimanere all'interno per tanti anni in maniera stanziale, l'idea del carcere è un'idea ancora romantica, ancora insomma lontana poi dalla realtà, almeno per me, ecco. Allora, per quanto riguarda la compagnia, volevo chiederti quante persone ci ruotano attorno? Guarda, ognuna delle nostre compagnie è formata da una trentina di detenuti, che sono tanti, voglio dire, per seguire in questo percorso teatrale. Quelli dell'alta sicurezza, che sono più stanziali, nel senso che sono pene lunghe e quindi permangono all'interno della compagnia più anni, hanno una preparazione alle spalle ormai di diversi anni. Quelli che invece fanno parte della compagnia del G8 che seguo io, ultimamente c'è un turnover molto più veloce, quindi diciamo che di questa trentina di persone che quest'anno hanno partecipato al mio laboratorio, quasi tutti sono alla prima esperienza. È evidente, sono persone che poi insomma incontrano il teatro a volte per la prima volta nella vita, insomma, nel senso che magari non sono mai neanche entrati in un teatro a vedere uno spettacolo. Quindi si parte proprio da molto lontano, per arrivare a un risultato che insomma io ci tengo, che quando vanno in scena loro siano proprio preparati non a livello amatoriale, ma che sia una preparazione professionale. Quindi grande ambizione, grande sfida. Finora devo dire che l'abbiamo sempre vinta. Laura, passiamo allo spettacolo, ce lo presenti? Dunque, sì, Rivoluzione alla Sudamericana è tratto da un testo di Augusto Boal, che è un autore brasiliano, che ha scritto questo testo negli anni 50. E, io l'ho preso intanto perché è un lavoro corale, che mi dava la possibilità di fare questo spettacolo con tutti questi attori in scena, perché sono sempre tutti in scena. E fra l'altro è un testo che ha un grande ritmo interno, è molto divertente, si ride, insomma è giocoso a livello quasi di clownerie. Ma il sottotesto, diciamo, la linea narrativa è anche invece molto forte, molto avvincente per me da portare in carcere, perché alla fine è la storia di una rivoluzione in qualche modo mancata, la rivoluzione di un gruppo di operai, diciamo così, di lavoratori che sono nullatenenti in questo lontano Sud America, questo altrove immaginario, che è un luogo di ovunque, non è un luogo preciso, e dell'operaio José in particolare, che è il protagonista, che alla fine cerca un riscatto, cerca di farsi esprimere i propri bisogni, essere riconosciuto, avere la possibilità almeno di un tozzo di pane, ma alla cosa non riesce mai. E tutto attraverso infinite tentativi di rivoluzioni nei confronti del padrone, nei confronti della politica, nei confronti perfino alla fine in uno scontro quasi, diciamo, una sfida con Dio. Il tutto raccontato come un grande gioco dove tutti loro diventano di volta in volta José, a significare che José siamo tutti, sono tutti loro, siamo tutti. In realtà questa storia è la storia che parla di solitudine, della solitudine dell'uomo che difficilmente riesce a trovare delle risposte ed essere veramente ascoltato. Insomma, ecco, l'ascolto che manca, l'ascolto per loro, per queste persone che vivono in carcere, che devono scontare una pena, a volte lunga, a volte meno. L'ascolto è molto importante ed è difficile l'ascolto. L'ascolto è sempre condizionato da una proiezione, da una strumentalizzazione, o comunque non è un ascolto veramente profondo e attento, vero. E anche la risposta non arriva mai. A José la risposta non arriverà mai. Ed è anche un testo in qualche modo che mi dà la possibilità di raccontare una dimensione esistenziale dell'uomo, insomma, della infinita domanda che c'è dietro ogni nostra esistenza: perché? Che cosa significa? Chi sono? Perché sono qua? Dove vado? Famose domande a cui difficilmente poi, se non proprio da dentro, troviamo una risposta. Ecco, per loro questo viaggio dentro questo testo è stato motivo